got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Ben ritrovati a questa puntata di Indovina chi viene a cena. Avete mai pensato a come trascorrono il Natale le signore che lavorano nelle nostre case come babysitter, colfe, badanti? Alcune di loro hanno lasciato in patria mariti e figli, altre amici e familiari. Alcune riescono a tornare nel loro paese per le feste, la maggior parte invece le feste le trascorre proprio in Italia, accudendo ancora una volta le nostre case, i nostri bambini e i nostri anziani. Questa puntata è dedicata a loro, al Natale delle badanti e delle colf ucraine in Italia. La comunità ucraina in Italia è cresciuta moltissimo. Dalle 120.000 presenze che si contavano nel 2006 siamo arrivati a quasi 230.000 persone, il doppio in pochi anni. L'80% di queste persone sono donne. In Ucraina il Natale è molto sentito, non si festeggia il 25 dicembre ma il 6 di gennaio. La differenza di circa 2 settimane è dovuta alla differenza fra i calendari utilizzati dalla Chiesa di Roma e da quella ortodossa, che resta sintonizzata sul calendario giuliano e non su quello gregoriano adottato invece dai cattolici. Di queste differenze, delle tradizioni, delle nostalgie di queste signore che vivono nelle nostre case, abbiamo parlato con alcune di loro. Benvenuta a Roxolana Dragon Magas. Grazie, buonasera. Da quanto lei è in Italia? E poi vogliamo capire un po' da lei quali sono le tradizioni del Natale del suo paese e anche se riuscite a replicare queste tradizioni qui in Italia. Allora, io vivo a Napoli, lavoro in una famiglia come colf. È da tanto tempo che si occupa di questo? Diciamo 8 anni già che io mi sento proprio nel suo... Napoletana? Diciamo, sì, sì. Come l'ha accolta Napoli? C'è un connubio abbastanza particolare tra la cultura di Napoli e la cultura ucraina? Guardate, io posso dire che Napoli è una città accogliente e gente per bene. Adoro questa città e gente che vive qua, perché mi hanno accolto come una di loro. Come festeggiate il Natale? Come lei festeggia il Natale? Innanzitutto, il Natale che voi festeggiate è il Natale che si festeggia il 6 di gennaio, no? Sì, abbiamo fortuna a festeggiare 2 volte, una volta Natale italiano e poi Natale ucraino. Come io vivo da sola, senza famiglia, io festeggio con le mie amiche o festeggiamo a scuola ucraina con le bambini, dove insegniamo a loro di sapere e conoscere le nostre tradizioni. Che tipo di piatti si preparano in Ucraina per festeggiare il Natale? So che è una tradizione molto grande per voi e sì, quindi è legata anche a una serie di pietanze che vengono preparate, no? Sì, abbiamo 12 pietanze che devono essere preparate per la cena. Deve essere astinenza dalla carne tutta la giornata, dalla mattina fino alla cena. Poi prepariamo 12 pietanze molto particolari. Il piatto famoso, cucchia si chiama, allora sarebbe grano di farina cotto, mescolato con noci tritati e poi uva passa e papavero. Un piatto dolce, però, quindi? Sì, però Però non mangiamo a fine la cena come tradizione ucraina. Questo primo piatto che si deve assaggiare prima di mangiare tutto. E alla vigilia si prepara una cena a base di verdure, di pesce, no? Sì, sì. Prepariamo involtini di verza cotta con patate dentro tritata. Molto buono, condita con cipolla fritta. Poi ravioli di patate, ravioli di verza già fritta, tanto pesce fritto, zuppa di funghi. E anche vorrei dire che prima di cenare, diciamo padrone di famiglia, deve mettere un specie di albero fatto di grano, questo come porta fortuna per tutto anno intero. E su tavolo si deve mettere due pagnotte di pane che non si toglie quasi due settimane. Questo come augurio di ricchezza e salute per tutta la famiglia intero anno. Questo pane si deve togliere il giorno 14 come vecchio capodanno San Vasili. Appunto, bambini vengono buttare grano per la terra, auguranno salute, felicità nella famiglia, e come bambini hanno buttato questo grano, entrato nella casa altro grano, questi pannotti si possono togliere da tavola. Sono tutti riti molto antichi che il popolo ucraino osserva con rigore, perché è ciò che gli antenati vi hanno tramandato, fra questi anche i canti natalizi. Però canti natalizi si cominciano già giorno di Natale. Prima di Natale non si può cantare, però devo dire che questo, io abito la provincia di Ivano-Frankivsk, ovest di Ucraina. Ogni provincia ha sue tradizioni. Che cosa fanno le donne, molte fanno le colf, le badanti nel nostro paese, che stanno in Italia il giorno di Natale? Allora, 25 dicembre posso assicurare che metà di nostre donne lavorano, come lavoro pure io, e lavorando pure festeggio Natale in famiglia dove lavoro. Io ho lavorato 6 anni in una casa di riposo e questo giorno io ho dedicato sempre a persone anziane, andavo a trovare loro, portavo un po' di dolci, cioccolate, per portare un po' di felicità per loro. Natale in Italia, perché, ma anche mi porta un po' di tristezza perché sto lontano dalla mia famiglia, però il cibo, come diciamo accoglienza di tutti i parenti, di tutta famiglia, come stanno insieme a pranzo, porta anche gioia e felicità nel cuore. Grazie Roxolana per essere stata con noi e buon Natale. Grazie anche a voi. Spi maleńki. ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare con altre signore ucraine tra pochissimo. Loro invece hanno vissuto, perché sono delle madri, la nostalgia per i figli che erano lontani a Natale mentre loro lavoravano in Italia. A tra pochissimo. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. E adesso siamo con Vira Melnichuk, un'altra signora ucraina. Innanzitutto benvenuta. Buonasera. Anche lei festeggerà in Italia il Natale italiano, così come il Natale che voi festeggiate il 6 di gennaio. Quanti anni è che festeggia il Natale in Italia? Sono originaria di Sambio, regione di Leopoli. Resisto in Italia già 7 anni. Lavoro come collaboratrice domestica e svolgo volontariato presso una scuola elementare ucraina. Quindi sono 7 anni che lei festeggia in Italia. Che cosa fa di solito il 25 di dicembre? Per quanto riguarda le feste di Natale, le trascorso compagnia della mia famiglia, che mi raggiungeranno in occasione delle feste. Noi festeggiamo proprio 6 gennaio per la nostra religione. Il 6 di gennaio verranno a trovarla i suoi parenti? Sì, vengono, anzi mio figlio dovrebbe venire dopodomani, che aspetto lui, e viene con mia madre e noi festeggiamo qua 6 gennaio la nostra vigilia, il nostro Natale. Quindi suo figlio, che quanti anni ha? 11 anni, si chiama Elia. È rimasto in Ucraina con la nonna? Con i miei genitori, mia madre e mio padre, sì. E da 7 anni siete distanti? Noi ci vediamo 2-3 volte all'anno, lui mi viene a trovare sempre alle feste natalizie e poi tutto estate siamo insieme, 3 mesi perché le ferie della scuola ucraina. Come mai ha scelto di non farlo, arrivare e studiare in Italia? È stato con me qua 3 anni, però come lavoro dalla mattina fino alla sera, io non posso dare a mio figlio questo futuro che vorrei dare a lui. Quindi ho scelto questo, che lui sta con i miei genitori. Vabbè, noi ci sentiamo quasi ogni giorno, ci sentiamo su Skype, io vado là, lui viene qua. Certamente lui sente la mancanza di mamma, però per momento più di questo non posso dare a lui. Sono orgogliosa di mio figlio perché vedo come lui studia, che fa là, come si comporta, quindi sono orgogliosa di lui e sono mamma e figlia molto felice, perché i miei genitori mi aiutano tantissimo. Ho dovuto trasferirmi in Italia perché non c'era per esempio un lavoro che mi poteva aiutare a mantenere la mia famiglia. Però qua ho trovato le persone proprio per bene. Sì, mi manca la mia famiglia, mi manca la mia terra, però anche qua vivo abbastanza bene perché vicino a me stanno le persone che mi vogliono bene. Ci sono echi nella sua vita di quella guerra di cui forse si parla poco in queste settimane in Italia, ma ne abbiamo parlato molto mesi fa, no? La guerra in Ucraina. Sì, mi dispiace per i miei compaesani, mi dispiace per questi ragazzi che devono combattere per il futuro dei nostri figli. Ovviamente avrà dei timori anche per suo figlio. Certo, certo. Lei ci raccontava dell'arrivo di suo figlio e di sua madre per festeggiare assieme a Natale. Che cosa fate di tradizionale per festeggiare il Natale? Quali sono le pietanze che preparate o le tradizioni, i riti? Mettiamo 12 piatti come i numeri di apostoli. Quindi cutia sicuramente, poi prepariamo anche i ravioli, delle patate, di funghi, della verza, si mangia anche il pesce sotto olio come tipo sgombro. Poi anche un altro piatto preferito sono le bombe zeppole ripieni con la marmellata di rosa. Su tavola mettiamo anche un piatto con aglio crudo, sbucciato, che il patriarca, sarebbe mia madre perché è più grande nella nostra famiglia, con benedizione dà a tutti gli ospiti vicino a tavolo con augurandoci salute. Suo figlio aspetta qualche regalo per Natale, è tradizione anche nel vostro paese di portare dei doni ai bambini? Nel mio paese si festeggia 19 dicembre San Nicola, che sarebbe un santo porta i regali che mettono sotto i cuscini. Allora questo santo per i nostri bambini è proprio un grande come il vostro Babbo Natale. E quindi suo figlio aspetta San Nicola? Sì, a 19 dicembre. Senta Vira, signora Vira, ci sono stati dei Natali in cui magari non è riuscita a vedere suo figlio? Sì, erano 5 anni fa che io non potevo andare in Ucraina e lui non è venuto in Italia. Proprio questo anno era troppo triste per tutti quanti, perché tradizione di mia famiglia a riunirsi a Natale. Quindi è stato un Natale con denso di malinconia, di nostalgia? Sì, un grande nostalgia. Grazie, buon Natale. Anche a lei vi auguro buon Natale e buon anno nuovo. Benvenuta Oksana Gapalo, che è con noi e che ci racconta anche lei qualcosa. Benvenuta innanzitutto. Grazie, grazie cara. Lei fa la golf. Esatto, sì. Da quanti anni è in Italia? 17 anni. E lei qui vive con la sua famiglia? Esatto. Io ho incominciato da sola perché sono venuta prima da sola e poi dopo piano piano sono venuti anche i miei figli, perché volevo che loro si diplomano in Ucraina e quindi una alla volta sono venuti anche qua. Quindi, quanti anni hanno i suoi figli? Allora, figlia più grande ce l'ha 30 anni, un'altra ce l'ha 27. Per molti anni, sono stati pendolari, come raccontava, facevano l'estate con lei e poi tornavano in Ucraina a studiare, esatto, a vivere. E la nostalgia era grande, immagino. Certo, perché è troppo poco tempo, per vedere figli soltanto due mesi all'anno, certamente, però sono stata anche fortunata perché altre persone non avevano neanche questa possibilità, perché non tutti potevano portare figli, quindi era un po' difficile, però comunque io sono riuscita e sono molto contenta. Con chi vivevano i suoi figli quando erano in Ucraina? In questa storia, in queste storie spesso manca la figura maschile, no? Esatto, sì. Io tutto il mio stipendio mandavo in Ucraina, ovviamente, poi sempre da vestire, tutto cosa era necessario mandavo in Ucraina, ovviamente. E allora tutti, come si dice, erano felici e contenti, loro là, io qua, e poi sempre hanno aspettato l'estate per arrivare da mamma, e quindi come se fosse una bella splendida vacanza. Quindi non mi posso lamentare tanto, perché comunque una volta all'anno vedevo i miei figli. E allora, a Natale venivano da lei? Natale no, solo per estate. Per inverno un po' più difficile, perché vacanze più piccoli, e allora è poi freddo, quindi dove porti? Al mare non puoi portare, soltanto in giro. E com'erano questi Natali senza i suoi figli? Se le ricorda quelle giornate? Certamente, certamente, ma sempre ringrazio a Dio, e non soltanto a Dio, anche a persone che ho incontrato, persone stupende. Non mi posso lamentare, perché sempre ho trovato persone per bene, che mai non ho incontrato mai persone cattive che potevo dispiacere per qualche cosa, diciamo, e perciò sono stata sempre invitata per Natale in varie famiglie di amici italiani, no? Allora è molto bello. Allora, quindi non rimaneva da sola? Mai, no, questo mai, assolutamente. Sempre sono stata in famiglie italiane. A volte piangevo, però non, diciamo, non erano lacrime, diciamo, pesanti, allegri. Soltanto sapevo che è questione di tempo, che per estate arrivano, e quindi soltanto questi più importanti feste, Natale e anche Pasqua, ero da sola. E per estate, va bene, estate i ragazzi erano con me. Queste feste natalizie, sì, ti fanno pensare tante cose quando non c'è famiglia. Quando vedi felicità di altre persone e tu sei da sola, allora ti fa pensare alcune cose, certo. Io ho lavorato come babysitter in una famiglia, e poi dopo, come già vi ho detto, quando ho preso casa tutta per me, allora ho lavorato come barista e ho lavorato come cameriera in ristorante. Quindi lei, che lavorava come babysitter, si è presa cura dei bambini degli altri. Esatto, sì. Bambini piccoli, e poi sono cresciuti insieme con me, quindi certo. E ho pensato che i miei genitori curano i miei figli, va bene, questo comunque è mia famiglia, però io mi sono impegnata per curare altri bambini. È poi un po' un paradosso, no? Sì, è vero, è vero. Buon Natale! Grazie, grazie, altrettanto. Lo scrittore francese Honoré de Balzac, visitando l'Ucraina a metà 800, contò ben 77 modi diversi di fare il pane. Dai pampushki, panini soffici bianchi fritti, insaporiti con aglio e olio, perfetti per accompagnare il borscht, ai pani dolci e dalle più strane forme, serviti per le feste o per i riti religiosi. I piatti tipici ucraini prendono spunto dai piatti poveri contadini, che hanno come base cereali e verdure, come patate, barbabietole, cavolo e funghi, conditi con aglio, aceto e aneto. Il borscht è la tipica minestra nazionale, perfetta per scaldarsi d'inverno. La versione normale è quella fatta con barbabietola, lardo ed erbe, ma è molto diffusa anche la versione verde, molto aromatica e preparata con acetosella. In ogni regione ci possono essere delle varianti, come quella con la salsiccia, il midollo o le mele marinate. i varenichi sono il piatto più consumato in Ucraina. Si tratta di ravioli a forma di mezzaluna con un ripieno di verdura o carne. Si possono provare con più di 50 ripieni diversi e vengono normalmente serviti accompagnati dalla panna acida, la smetana e da burro fuso. Molto popolari anche gli olubzi, foglie di cavolo arrotolate ripiene di riso condito, carne o grano saraceno, a cui viene aggiunta sopra della salsa fatta con del pomodoro. Il kasha è una specie di porridge, quasi sempre di grano saraceno, presente in quasi tutti i piatti ucraini sotto forma di contorno, ripieno o ingrediente principale in una tipica pappa preparata per la colazione. Famose anche le frittelle ucraine. Ce ne sono di tre tipi. Le deruni, a base di patate, servite con una salsa cremosa adatte ad accompagnare verdure o carne. Le nalinski, simili a delle crepe sottili. E le mlinzi, piccole e spesse, simili alle blini russe. Tra le prelibatezze più curiose e meno banali, segnaliamo il salo, ovvero il lardo. Gli ucraini amano talmente tanto questo prodotto da avergli dedicato canzoni e poesie. E per questa puntata è tutto. Io vi auguro una buona serata con i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per Indovina chi viene a cena vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 23, sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. A sabato, ciao. You've got to give a little. That's the glory.